Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, il nostro appuntamento tutti i sabati, tutte le domeniche con le riviste, le proposte editoriali non quotidiane, italiane e anche straniere. Devo dire che se a volte notiamo qualche curiosa consonanza di argomenti nei settimanali, nei mensili, questa settimana proprio non c'è dubbio, si parla sostanzialmente di due cose. L'una è il Festival di Sanremo, magari ne parleremo tra oggi e domani, insomma segnalandovi qualcuna delle questioni che più emergono dallo sfoglio dei settimanali, e l'altra è San Valentino. Io vorrei ricordare, anche a beneficio soprattutto dei colleghi maschi che notoriamente sono più smemorati o magari meno sensibili a questo tipo di ricorrenze, che lunedì incombe su tutti noi questa data di San Valentino, quindi insomma prepariamoci per tempo, ecco, non facciamoci cogliere impreparati. Ma devo dire, con l'occasione di San Valentino emergono anche dei contributi gradevoli, molto gradevoli. Ad esempio, su Grazia di questa settimana, Maria Teresa Cometto ci segnala una conversazione interessante con l'autrice di un libro uscito negli Stati Uniti che si chiama La scienza del bacio. L'autrice è Cheryl Kirschenbaum, il libro è appena uscito, appunto, come spiega la stessa Cometto nel suo articolo. L'articolo ha un titolo molto romantico, poi in realtà i contenuti, come vedremo, spaziano un po' non solo dal bacio classico degli innamorati, ma anche appunto al modo di salutarsi, per dire baciandosi sulle guance, che parrebbe più diffuso in Italia che non altrove. Vi leggo qualche passaggio. Dall'incontro delle labbra, innanzitutto, dice l'autrice, grazie alle reazioni chimiche che si scatenano si può davvero capire se abbiamo di fronte l'anima gemella, quindi un segnale che arriva grazie al bacio, molto chiaro, inequivocabile, parrebbe, appunto, sentendo Cheryl Kirschenbaum. La signora peraltro è considerata una delle migliori scrittrici di divulgazione scientifica. In questo volume racconta proprio la storia del bacio dalla preistoria fino ai giorni nostri, ha ricostruito appunto il bacio. Quindi le viene chiesto innanzitutto, ma cosa succede nel nostro corpo mentre ci baciamo? Si scatenano diverse reazioni chimiche, ormonali, vengono rilasciate sostanze come l'ossitocina, che ci dà un forte senso di attaccamento agli altri, la dopamina, che trasmette piacere, e poi, raggiungendo il massimo quando siamo con la persona amata, ci fa desiderare appunto di continuare la relazione. E poi ci sono delle differenze tra uomini e donne, naturalmente anche rispetto al bacio, cioè, o meglio, alle aspettative. Dice, c'è una differenza, le chiede. Chiede alla dottoressa Kirschenbaum, Maria Teresa Cometto, c'è una differenza tra il bacio maschile e quello femminile? La risposta è se c'è, è psicologica, perché gli uomini lo considerano uno strumento per guadagnarsi l'accesso a un rapporto più intimo, le donne invece danno valore a questo atto in sé e cercano di capire a che punto è la relazione. Quindi c'è una differenza, diciamo, di aspettative nei confronti di questo gesto. È vero, le chiedono anche, che baciare un po' come praticare un'attività sportiva, fa muovere muscoli, fa bruciare calorie, quindi avrebbe addirittura effetti benefici sul nostro stato fisico. La risposta è la seguente: la verità è che non muoviamo solo i muscoli della bocca, che sono soltanto 6 peraltro, ci viene precisato, ma anche il cervello, quindi l'atto risulta piacevole per questo motivo. Si attivano 5 paia di nervi che attraversano il cranio, che sono però gli stessi responsabili dell'olfatto, del gusto, della vista, delle espressioni facciali. C'è anche chi ha osservato che 2/3 delle persone, mentre baciano, inclinano la testa verso destra. Non so in quale terzo dell'umanità vi vogliate collocare, le chiedono perché, e la risposta è forse dipende, forse, quindi non sono ancora sicurissimi del perché di questo comportamento, da come sono state tenute in braccio da piccole. Una tesi freudiana poi è che noi ricordiamo in questo modo il benessere di quando eravamo bambini e venivamo appunto allattati al seno materno. Poi qualche altra curiosità, non vi leggo tutta l'intervista che è anche abbastanza lunga, occupa poi 3 pagine di Grazia di questa settimana. Le chiedo, ma perché si dice bacio alla francese? La risposta è che le origini di questa espressione non sono chiare, ma per la prima volta è stata rintracciata questa espressione appunto alla francese nei diari dei viaggiatori americani che nell'Ottocento andavano in Europa, erano colpiti dalle donne francesi e quindi evidentemente hanno voluto intitolare il bacio a queste donne francesi. Così spiega la signora, che peraltro essendo statunitense potrebbe anche essere un po' condizionata da questa sua provenienza. Ci sono delle differenze anche tra paese e paese, anche all'interno della stessa Europa. Ad esempio in Germania esistono 30 diverse parole per descrivere il bacio, ce n'è una che è Nachküssen e significa un bacio per tutti i baci non dati. In Italia invece l'autrice di questo volume ha notato che c'è una diffusione più ampia che altrove, come vi dicevo, dei baci cosiddetti sociali, cioè quelli che ci scambiamo sulle guance per salutarci fra amici e conoscenti. Infine, parlando di bacio, approssimandoci, come vi volevo ricordare, a San Valentino che incombe su di noi lunedì, l'uso dei rossetti, l'uso dei gloss, perché le chiedono, noi donne andiamo pazze per i gloss e per i rossetti. Gli antropologi hanno studiato questa tendenza, hanno concluso che l'utilizzo di questi accessori è un richiamo sessuale, perché dal cervello primordiale dei maschi, che non è un giudizio di valore se capisco bene, ma vuol dire proprio dagli istinti più primordiali che stanno nei maschi, una donna con le labbra più rosse viene vista come una donna più giovane, una donna più fertile, e infatti l'uso del rossetto è documentato fin dall'antichità, almeno dai tempi dei faraoni. Restiamo in qualche modo in un ambito femminile, abbiamo parlato di rossetti, parliamo di scarpe, perché non so quanti di voi abbiano avuto occasione di ascoltare Magazine 24 la settimana scorsa, avevamo indicato addirittura una formula matematica che dovrebbe consentire alle donne di calcolare qual è l'altezza corretta dei loro tacchi. Sull'Espresso invece di questa settimana Paola Emilia Cicerone riporta un duro atto di accusa ai tacchi alti proprio delle signore, perché insomma pare che, come però sappiamo peraltro, l'utilizzo dei tacchi mette in grossa difficoltà molte parti del corpo. Giù da quei tacchi è il titolo dell'articolo. Perché giù dai tacchi? Perché se si scende dai tacchi si possono eliminare i dolori articolari, si salvano le caviglie, si evita la chirurgia e si può riequilibrare la postura con le scarpe giuste, o magari addirittura togliendosi le scarpe. Questo mi sembra un rimedio un po' meno praticabile, ma è quello che poi viene effettivamente segnalato all'interno dell'articolo. L'articolo contiene alcune dichiarazioni di un fisiologo americano che si chiama Daniel Howell, ha raccolto una serie di motivazioni mediche che portano a scendere dai tacchi e invitano donne ma anche uomini a camminare a piedi nudi. Infatti ha scritto anche un volume che si intitola Tutte le buone ragioni per liberarsi dalle scarpe. Dice: portare le scarpe forse è normale, dichiara Howell, però non è naturale. Lui dice di aver corso almeno 3.000 km a piedi scalzi, dal 2007 non usa più calzature e dice appunto che le scarpe in realtà alterano la biomeccanica del piede, alterano la postura, la distribuzione del corpo, eccetera. Un po' più prudente è invece l'altra persona sentita nell'articolo, che è Leonardo Maradei, responsabile del Dipartimento di Ortopedia Mini-Invasiva agli Istituti Clinici Humanitas, che insomma prende un po' le distanze da questa posizione. E dice, beh, diciamo che bisogna avere sicuramente, ad esempio per le signore, una pianta abbastanza larga, un tacco ragionevole. Ragionevole vorrebbe dire sui 4 centimetri per una donna, sui 2 per gli uomini. E le donne naturalmente che portano tacchi più alti, in questo caso possono insorgere altri disturbi, l'allucevalgo e altri disturbi ad esempio alle ginocchia. Però questo non significa, secondo appunto lo studioso italiano, che si debba rinunciare ai tacchi alti. È meglio riservarli per un'occasione speciale. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando di scarpe. Naturalmente, quando si parla di scarpe e di come dire, malesseri che possono insorgere dall'uso delle scarpe, viene naturale pensare alle scarpe da donna, perché se ci sono questi tacchi alti o anche molto alti, che effettivamente possono affaticare alcune parti del corpo come il ginocchio o l'anca. In questo articolo dell'Espresso, però, che si chiama Giù da quei tacchi, appunto, che trovate sull'Espresso di questa settimana, ce n'è anche per le scarpe degli uomini, perché si spiega, anche le classiche robuste scarpe da uomo sono sotto accusa, perché un paio di scarpe da uomo può pesare oltre un chilo. Se noi pensiamo che in una giornata facciamo circa 6.000 passi, possiamo calcolare che alla fine della giornata i nostri piedi avranno sollevato diverse tonnellate. Poi c'è anche da notare che molte calzature sono strette e rigide e costringono così a modificare l'andatura. C'è anche una parola inglese, barefooting, in realtà vuol dire camminare a piedi nudi, insomma, ha solo il vantaggio di poter esprimere con un termine più secco quello che capiamo bene anche in italiano. Ecco, una parola inglese, dicevo, che sta dando origine appunto a una sorta di movimento di persone che invitano a camminare senza scarpe per un migliore benessere o per evitare magari i disturbi che possono insorgere dalle scarpe. E allora, visto che a piedi nudi o con le scarpe, ma insomma, poi ci si deve muovere, ci si vuole spesso anche muovere, passo proprio a tutt'altro argomento, che ed è il turismo. Il turismo, perché su Famiglia Cristiana questa settimana c'è un dossier dedicato proprio al turismo. La circostanza di questo dossier è legata al fatto che settimana prossima si aprirà la Borsa Internazionale del Turismo a Milano, quindi dal 17 al 20 febbraio, la 31esima edizione della BIT, come si chiama, ed è la più grande esposizione del prodotto turistico italiano. Maurizio De Paoli e Rosanna Precchi hanno raccolto una serie di informazioni sul turismo in Italia, e chiaramente il turismo è una fonte molto molto importante anche per la nostra economia. E devo segnalarvi però che proprio da questo dossier ho appreso che la Cina ci ha scavalcato tra le mete più visitate. In cima alle mete più visitate dai turisti di tutto il mondo c'è la Francia, poi ci sono gli Stati Uniti, poi segue la Spagna, e al quarto posto che prima era nostro, cioè fino al 2008, nel 2009 è invece arrivata la Cina al quarto posto, poi c'è l'Italia al quinto, seguono Regno Unito, Turchia, Germania, Malesia e Messico. Sempre nel dossier di Famiglia Cristiana si apprende anche che da gennaio a settembre del 2010 gli stranieri hanno speso in Italia 23 miliardi di euro, il che significa un punto percentuale quasi in più rispetto a quello che avevano speso l'anno prima, e secondo il monitoraggio dell'ENIT ci aspettiamo un buon andamento dall'afflusso turistico anche nel corso del 2011. Quindi turismo come fonte di divertimento, di svago per tutti, ma anche e specialmente per noi italiani come importante risorsa economica. Ed è sicuramente un'importante risorsa economica e consente di viaggiare molto pur stando alla scrivania Facebook. Sapete, ormai questi social network pervadono un po' la vita di tutti noi. Facebook, che è il social network, cioè la rete di conoscenze che si fanno via internet più conosciuta, più diffusa al mondo, ha circa 600 milioni di persone che vi aderiscono. Quindi entrando in Facebook entrate in questa specie di enorme città virtuale popolata da 600 milioni di persone, 600 milioni diciamo di componenti di Facebook, magari poi un indirizzo potrebbe corrispondere, che so, a un'azienda, perché infatti come si apprende da un volume che è in edicola da giovedì con il Sole 24 Ore, Facebook è anche una risorsa importante per le aziende. Da giovedì, come vi dicevo, il Sole 24 Ore ha cominciato questa collana Fare Business con i social network, quindi le opportunità di commercio, le opportunità anche per le aziende o per chi anche volesse mettersi in proprio e capire come utilizzare questi social network dal punto di vista economico, dal punto punto di vista lavorativo. Il primo volume, che trovate in vendita con Il Sole 24 Ore, è proprio dedicato a Facebook, l'ha scritto Luca Conti, che è un consulente specializzato proprio nell'uso avanzato di questi media sociali in chiave di marketing e di comunicazione. Descrive Facebook lui stesso come luogo ideale per il business. Le aziende riescono tramite Facebook a parlare direttamente con i consumatori e possono produrre, anche le persone singole peraltro, possono produrre contenuti con estrema facilità e sviluppare poi un rapido passaparola su qualsiasi argomento. E questo è appunto uno dei motivi per cui è così importante cominciare a fare business con i social network. Poiché vi ho segnalato un prodotto del Sole 24 Ore, ne segnalo anche un altro per chi invece fosse interessato all'aspetto più professionale, all'aspetto fiscale, delle pensioni, della previdenza, della giustizia, insomma tutti quegli articoli che trovate nelle sezioni ad esempio di norme e tributi del Sole 24 Ore tutti i giorni. Ecco, vi voglio dire che dalla prossima settimana sarà anche in vendita un CD-ROM che contiene tutto l'archivio di norme e tributi e soprattutto anche le risposte degli esperti, le risposte che vengono date dagli esperti del Sole 24 Ore proprio su queste materie, quindi fisco, lavoro, pensioni, giustizia, tutto raccolto in un archivio che sarà venduto dal giorno 16 di febbraio insieme al Sole 24 Ore. E allora, abbiamo parlato in qualche modo di lavoro, ma quali sono le aspettative poi delle donne riguardo al lavoro? Ci sono due segnalazioni un po' inattese, l'una su Famiglia Cristiana, l'altra sull'Espresso, quindi devo dire in modo abbastanza diffuso trasversalmente. Colgo da Famiglia Cristiana un contributo di Silvia Guzzetti dove si dice: la vera carriera in realtà è un marito benestante. Chi lo dice? Lo dice una sociologa femminista che si chiama Catherine Hakim e dice che le donne in realtà non vogliono fermarsi affatto nel lavoro, vogliono stare a casa e curare i figli. Ripeto, è il parere della signora Hakim. Riferisce Silvia Guzzetti: un marito ricco e con una buona posizione che possa mantenere la moglie a casa e prendersi cura dei figli. Questa è l'ambizione segreta della maggior parte delle donne in tutto il mondo. Lo sostiene l'ultimo studio condotto in Gran Bretagna e anche in altri paesi da Catherine Hakim, sociologa, ed è docente anche alla London School of Economics, che è una scuola, come sapete, molto prestigiosa. Un rapporto che è stato proprio pubblicato dal Center for Policy Studies, la Hakim ha detto, la Hakim che ricorda Guzzetti ha un passato da femminista, quindi al di sopra di ogni sospetto quanto a idee antiquate sul ruolo femminile, sostiene che le donne considerano il matrimonio una carriera. A differenza però di 200 anni fa si vergognano ad ammetterlo e quindi in realtà rimane la loro aspirazione, rimane l'aspirazione femminile più diffusa, mentre non sarebbe così diffusa l'affermazione, aspirazione ad affermarsi sul lavoro. La percentuale di donne che desiderano sposare uomini più istruiti di loro è poi aumentata, risulta in aumento dal 20 al 38% tra il 1949 e la fine degli anni 90. Le coppie dove in realtà ci si aiuta in modo un po' più paritario esistono, sì, ammette la sociologa, però sono in realtà una piccola elite all'interno della quale le donne hanno studiato, hanno una carriera professionale avviata, ma sarebbero appunto un'eccezione e non la regola. Questa indicazione che trago da Famiglia Cristiana. Io, avendo concluso il tempo per questa puntata, vi rimando alla puntata di domani, domenica, sempre alla stessa ora, con Magazine 24, perché parleremo di un articolo apparso invece sull'Espresso che è molto simile, che riprende esattamente questo tema, devo dire un po' inatteso. Per oggi ci fermiamo qui. Io ringrazio Paolo Corleoni questa mattina in regia, grazie ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma, e Magazine 24 vi dà appuntamento a domani.